anni. Una danza gala e stiati. Acqua misa per lo sbarlari. Mangiava tu, mangiava i mimpi. Kalau poli jadi pacarmu.